prima che di nostra casa. Seguiamo sopra, seguiamo nostra famiglia, facciamo sopra, chi non si nasce come lui. I got this to start high.